9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino oggi vi chiede di intervenire all'800240024 su un fenomeno che prende solo spunto da questo nuovo gioco che inizia oggi, questo sulle 4.000 euro al mese, per capirci, esentasse per 20 anni nel caso in cui si vincesse. Ci interessa partire da questo punto per farvi riflettere sul fatto che in dieci anni, fatto 100 il livello dei consumi delle famiglie italiane, dopo 10 anni è poco più di 130, in 10 anni è aumentato solo del 30%, quindi praticamente con incrementi dello 0, se uno guarda poi l'inflazione anno per anno. Invece in questi stessi 10 anni voi che mi state ascoltando, e tanti altri che non mi stanno ascoltando, ma insomma un qualunque campione significativo e statisticamente in linea con la rappresentanza degli italiani, ecco, ha visto passare le cifre date al gioco, mentre i consumi delle famiglie da 100 a 130 in 10 anni, da 100 a 280 per il gioco. Stiamo parlando nel 2008 ai giochi legali, che come sapete sono tanti, sono complessi, sono i vecchi giochi di scommesse tipo il Totocalcio, la Sisal, che sono caduti negli anni, sono soprattutto le video slot machine che legalizzate qualche anno fa hanno iniziato a fruttare un mucchio di soldi, e sono poi i giochi telematici, quelli online, quelli che hanno iniziato a crescere in maniera febbrile negli ultimi anni, dal videopoker al gaming più complesso fatto online. Ma insomma nel 2008 voi avete giocato legalmente su questi che sono i giochi legali, lasciamo perdere quelli illegali, praticamente 3 punti percentuali di PIL, e quest'anno sicuramente si supererà di molto la cifra dei 50 miliardi di euro che si pensava all'inizio dell'anno di superare, ma poi vista la febbre scatenatasi per molti mesi sul Superenalotto, che ha visto andare a giocare milioni e milioni di italiani ogni settimana, sicuramente saranno superati di molto quella quota dei 50 miliardi. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che vale non solo 3 punti di PIL, ma che vale poi oramai 1.700 aziende, che vale circa 20.000 addetti, che vale 70.000, probabilmente 80.000 quest'anno unità di lavoro nelle reti distributive. Cioè stiamo parlando di un fenomeno molto rilevante nel totale della società italiana, e da voi molto spinto, dagli italiani spinto con una forza incredibile, che rivela poi nuove tendenze. E però qualche numero per riflettere, poi vi presenterò gli ospiti e chiamate naturalmente all'800240024 per farci capire la vostra febbre da gioco o la vostra disillusione, che spero conviva oltre alla febbre. Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda almeno 28 milioni di italiani, secondo i sondaggi giocano, non dico con una certa sistematicità, ma almeno 1, 2, 3 volte l'anno. Almeno l'11,6% degli italiani dichiara di farlo a Nomisma e a Censis, che sono i due istituti che rilevano sistematicamente le tendenze sul gioco italiano. Come vedremo, almeno l'11,6% di voi dichiara di farlo almeno una volta a settimana, almeno l'1,4%, attenzione, dichiara di partecipare a un gioco almeno una volta ogni giorno, il che significa che 700-800.000 italiani ogni giorno si dedicano a questa attività, e oltre 13 milioni di italiani sistematicamente coprono almeno 3 giochi nella vasta panoplia che viene offerta da chi? Viene offerta poi naturalmente con grande abilità dallo Stato, che negli anni per legalizzare e fare la lotta ai video machine che erano illegali e collegate alla criminalità organizzata, ha sapientemente graduato il prelievo fiscale sui diverse tipologie di gioco, in maniera tale da alternare percentuali che vanno all'erario molto elevato e percentuali invece molto più basse a seconda di quale fenomeno incoraggiare, se mi passate il termine. Quindi a seconda appunto delle percentuali che l'erario riserva per sé sulle vostre giocate, è ovvio che in teoria conviene di più o di meno partecipare al gioco stesso, a prescindere dalle percentuali poi statistiche sempre molto basse di vincita. Faccio degli esempi: per le slot di tipo nuovo legalizzato che trovate nei bar, nei luoghi pubblici, l'erario si prende il 12% sul Superenalotto invece è il gioco dove lo Stato si prende di più, si prende il 49%. Pensate a quanti soldi gli avete dato con tutta quella corsa al Superenalotto dei mesi fa. Sull'otto prende invece il 26% e su Gratta e Vinci il 17%. Tenete conto che non a caso le New Slot hanno dato quasi la metà del totale di tutti questi tre punti di PIL. Beh, il prelievo è molto basso, sul bingo il 20%, sulle scommesse sportive il 4,9%, qui si trattava di battere quelle clandestine ovviamente, sui giochi di abilità online, che sono quelli in esplosione nella parte ricca del paese, come vedremo, perché anche qui c'è un divario tra l'Italia ricca e l'Italia povera, si prende solo il 2,9%, quindi una media più o meno del 17%, per una media complessiva su questi tre punti di PIL che giocate con grande soddisfazione. In questi ultimi anni lo Stato è stato furbo, cioè ha aumentato la quota destinata al montepremi, cioè 2/3 di questa quota viene comunque destinata al montepremi e 1/3 invece sparisce a finalità pubblica. Concludo questo piccolo prontuario iniziale dicendo che naturalmente anche il gioco di oggi, quello che parte oggi con la scommessa dei 10 numeri più 1 per vincere i 4.000 euro al mese, è naturalmente fatto con una dichiarata finalità sociale, visto che il 23% che va all'erario serve a ricostruire l'Abruzzo. Io sono un po' scettico verso queste vecchie modalità del gioco, le 3F, però avete presente le 3F dei Borboni, Festa, Forca, però devo ammettere che quando ci si trova in presenza di un fenomeno così rilevante per l'economia nazionale, con tante imprese che sono organizzate, che studiano novità e che assecondano il gusto e l'interesse degli italiani, è stupido che io mi metta a fare ovviamente il moralista, anzi probabilmente è profondamente sbagliato, visto che agli italiani tutto questo interessa molto. Bene, mi taccio perché presento gli ospiti con cui iniziamo a approfondire alcuni aspetti di questa febbre sociale, ma anche di questo impetuoso fenomeno economico in crescita. Abbiamo innanzitutto un giocatore professionista, Alessandro Pastura. Buongiorno Pastura. Buongiorno. Che rappresenta una appunto delle dimensioni di questo fenomeno, perché lui è un ingegnere informatico che lavorava benissimo la sua professione, si è dedicato poi al gioco professionista e vedremo come e perché può essere conveniente e molto soddisfacente anche farlo. E poi abbiamo collegato Carlo Gualandri. Buongiorno Gualandri. Buongiorno. Che è il presidente e fondatore di Gioco Digitale, una delle società che in questi anni appunto ha avuto più successo esattamente sulla frontiera avanzata del gaming e che diventerà amministratore delegato di Bwin Italia. Bwin è un grande nome della realtà del gaming internazionale che ha comprato appunto Gioco Digitale, confermando naturalmente il suo fondatore Gualandri. Ecco Gualandri, dovesse tracciare un bilancio di come sta rapidamente cambiando nel suo segmento tecnologicamente più avanzato il settore del gioco, come lo descriverebbe? Direi che stiamo colmando un divario di accessibilità e di offerta ai giochi che esiste tra l'Italia, dove la regolamentazione ci ha messo un po', anche se oggi tende a diventare completa, e il resto del mondo dove, seppure in forma illegale, molti giochi erano già presenti. Oggi l'Italia sta finalmente portando il portafoglio completo dell'offerta a contatto col pubblico in una forma legale e regolamentata. Senta, lei nella sua evoluzione professionale, insomma, è andato un po' tutti i gruppi che si inventavano attraverso il web una modalità nuova di organizzazione dei servizi con più valore aggiunto rispetto a mettere insieme, assemblare semplicemente processi successivi e distinti, cioè lei ha fatto Virgilio, lei è stato in Seat, cumulando tutto questo, si sentirebbe di dire che questo è un settore in cui tra sviluppatori software, webmaster, ingegneri, web marketing, manager, c'è molta più inventiva e capacità di innovazione nella creazione di prodotti, software capaci di interpretare un'evoluzione del mercato in cui c'è molta più tecnologia e innovazione di quello che sembra? Sì, assolutamente. Direi che il filo conduttore è la capacità di trasformazione dell'online, che quando viene a contatto con determinati mercati in parte li trasforma cambiandoli tantissimo. Basti pensare al banale concetto di comprare un libro su Amazon, che cosa vuol dire oggi per uno che sta in Italia e ha accesso al mondo intero rispetto a quello che poteva essere solo poco tempo fa. E dall'altra parte invece contemporaneamente crea opportunità completamente nuove, mercati che prima non esistevano. E questo è stato vero per la ricerca delle informazioni, è stato vero nel mondo della comunicazione dello small business, citava Seat, è stato vero nel mondo del trading e del banking online e così via, nelle relazioni sociali come ben conosciamo di questi tempi. Quindi sì, sicuramente l'online ha una capacità di trasformazione dovuta al fatto che con la tecnologia e con la digitalizzazione del mondo si possono sperimentare e poi in realtà tra quelle che funzionano decidere di realizzare tantissimi nuovi prodotti, tantissime opportunità alternative di consumo dei medesimi prodotti molto più velocemente e facilmente che se uno dovesse testarli su un canale distributivo reale, aprendo dei negozi, costruendo dei prodotti e mandandoli in giro con i camion. Oh, a me interessa con lei anche approfondire un fenomeno, cioè se sia vero che ci sono poi due Italie tradizionali del gioco, perché se uno va a vedere le graduatorie di quanto si spende per il gioco sul totale del reddito disponibile, vede che come più o meno si aspetta per evoluzione storica del nostro paese, tra parentesi rispondo a chi mi sta mandando sms dicendo che sbaglio a dire avete giocato, rivolgendomi agli ascoltatori invece che abbiamo, io non voglio segnare la distanza, io non gioco per scelta, per questo dico avete, ma detto questo c'è una tradizionale distinzione che non so se valga ancora, questa tradizionale distinzione tra le regioni e le province d'Italia in cui si giocava di più sul proprio reddito disponibile, tradizionalmente la regione del centro-sud, per capirci Caserta, Napoli, Benevento, dove il fenomeno del gioco come possibilità di riscatto è tradizionalmente più incardinato e incorporato nelle abitudini degli italiani, però tutto il fenomeno del gioco nuovo, il poker online, tutto il gaming su internet eccetera eccetera, invece è concentrato nella fascia pedemontana del nord, nella fascia più ricca, che spende meno sul reddito disponibile ma spende enormemente di più ed è molto in crescita su questa frontiera nuova. Ci sono veramente queste due Italie o ci sono fenomeni di convergenza secondo lei? Ma secondo me ci sono più Italie a seconda delle fasce demografiche, è il fenomeno del sud che spende inseguendo il sogno del nord più razionale, è vero, esiste, soprattutto esisteva ed è riconducibile a ricerche sociologiche fatte però un po' di tempo fa, quindi fino a qualche decina d'anni fa, e quindi riguardava tipicamente i grandi giochi nazionali come le grandi lotterie, il gioco del lotto. Sui giochi nuovi, che significa in molti casi anche su una clientela più giovane e quindi se vogliamo meno figlia dell'Italia di una volta e più figlia del villaggio globale, questa differenza non è così visibile, anzi in realtà se dovessi pensare al mondo del poker online, per il più recente dei giochi introdotti, è chiaro che la capitale del poker in Italia oggi è sicuramente il mondo, è Roma e il mondo attorno a Roma. Dopodiché esiste una forte presenza in alcune regioni del nord come anche in alcune regioni del sud, ma bisogna sempre fare un po' di attenzione quando si guarda a questo a non incrociare le regioni popolose con la penetrazione dei giochi, perché è ovvio che poi dopo la Lombardia esiste, dopo il Lazio esiste la Lombardia. Però in termini relativi ci sono diverse regioni anche nel caso del mondo dell'online dove il centro-sud è in proporzione più appassionato di quanto non sia il centro-nord. Quindi secondo me nel mondo moderno del gioco su internet probabilmente l'elemento più rilevante è l'indice generale di diffusione di internet, che però oggi tende a essere abbastanza omogeneo e di sicuro non segue quelle logiche che si usavano una volta, per così dire, che sono probabilmente le logiche con cui giocavano i genitori di quelli che oggi sono il vero mercato. No, certo, internet lo ricordo, noi rimaniamo con un tasso di penetrazione delle famiglie italiane che è considerevolmente più basso ancora della media OCSE, noi siamo sul 49% e purtroppo non sta più salendo negli anni, o quasi, cioè è come se avessimo un indice di saturazione tendenziale ormai delle famiglie italiane, perché le fasce in cui è più alta, la penetrazione è molto più alta di questa media, sono quelle appunto con i figli più giovani in età scolare, e sapete quanto non siano molto frequenti ormai nelle famiglie italiane, quelli con i più alti titoli di studio, professionisti, commercianti eccetera, percentuale molto più bassa tra gli operai. Pensate che ho visto proprio ieri, tra le famiglie operai l'ultima rilevazione sono solo il 26% ha il computer a casa, e quindi c'è una penetrazione un po' così. Però la domanda a postura che faccio io è questa: io da scettico, sia pure appassionato, vecchio giocatore di carta, ma un po' scettico, sono molto colpito nel vedere come a volte, quando butto un occhio su quanta gente sia nelle poker room, sono cifre in contemporanea nelle maggiori, quelle che vanno di successo nel nostro paese, 70, 80, 90 mila persone in contemporanea, cioè è una vera febbre quella che si è scatenata negli ultimi tempi sul poker online. Il successo di anche le trasmissioni televisive, ma insomma di tutto ciò che è dedicato alle nuove forme dei tornei, sto pensando al Texas Hold'em, oppure molto più che alle Zap, cioè quello occhi negli occhi, che almeno aveva un fascino, così mi pare che ne abbia molto meno. Però insomma è un grande fenomeno. Per lei che cosa è stato il vero meccanismo per cambiare dal vecchio mestiere al nuovo? Il fatto che le PHS ci ha provato e tutto sommato si è trovato non male, perché insomma magari si guadagna anche meglio di prima facendolo sistematicamente, oppure era proprio la dimensione nuova di questa interattività che ne moltiplicava in qualche misura il personaggio, ciò che l'ha spinta? Ma diciamo che io sono sempre stato una persona molto pragmatica. Se qualche anno fa qualcuno mi avesse detto un giorno diventerai un giocatore di poker online professionista, probabilmente mi sarei messo a ridere. Ma quello che mi ha spinto è stato proprio questa variante di gioco che è completamente diverso dal vecchio poker, quindi parliamo di un poker che è molto legato a componenti quali statistica, matematica, dove la parte aleatoria nel lungo periodo equivale probabilmente quasi a zero. Questo mi ha spinto, insomma, la possibilità di poter accedere a diverse partite contemporaneamente con online sicuramente è stata la leva che mi ha spinto. Ho iniziato con per hobby, così per divertimento nelle pause del lavoro. Col tempo ho iniziato a studiare il gioco, a comprare libri di poker, a vedere dei video dei giocatori più famosi, ho studiato tantissimo, ho avuto proprio un approccio molto, molto graduale e molto professionale, e questo mi ha portato a essere poi nel lungo periodo un giocatore vincente. Quando ho iniziato a vincere abbastanza, ho deciso che era probabilmente la mia strada, insomma. Devo dire la verità, ma lei nel seguire contemporaneamente, non so quanti ne potrà seguire contemporaneamente di tornei online, immagino un certo numero se lo fa proprio professione, ma lo fa con dei modelli algoritmici, numerologici, aggiornando in temporale tutto quello che vede le altre carte e quindi facendosi ispirare nelle strategie dallo sviluppo che avviene nel suo computer? Immagino di sì, facendo no. Anche il mestiere che faceva. No, diciamo che l'importante per essere vincente a poker è fare delle scelte che siano premianti nel lungo periodo. Noi parliamo sempre di expected value, no? Quindi di valore atteso delle nostre giocate. Chiaramente per far questo bisogna giocare tantissimo, perché le faccio un esempio molto semplice. Se noi con una mano molto forte abbiamo una probabilità di vincere l'80% delle volte, giusto? È chiaro che la varianza statistica in poche partite può incidere tantissimo, no? Io potrei perdere anche 7-8 volte di fila con questa mano molto forte. Chiaramente giocando tantissimo questa varianza statistica viene quasi annullata. Diciamo che io gioco contemporaneamente anche fino a 20 tornei. E contemporaneamente, come dire, dandosi una strategia si rende la sistematicità della partecipazione al gioco, che avrebbe quasi dei fenomeni di dipendenza dalla ludopatia se non fosse condotta con questa ferrea razionalità, la si riconduce invece a una strategia di ottimizzazione del risultato, se ho capito bene. È così, Pastore? Scelte che ci rendano vincenti, quindi bisogna analizzare quali sono le scelte migliori e quelle più piemanti nel lungo periodo. Chiaramente noi che siamo giocatori professionisti giochiamo 20 tavoli, perché ormai è tantissimo tempo che giochiamo, quindi siamo abbastanza preparati. La maggior parte dei giocatori gioca uno o due tornei puro divertimento, ecco, insomma, è una forma di entertainment puro, ecco, va bene, intrattenimento. Io immagino anche una fonte, vediamo, di problemi per un pochino, perché dopo la pausa delle pubblicità vedremo che più dell'8% di questi 28 milioni di italiani dichiarano poi di avere fenomeni di dipendenza dal gioco. Oscar Giannino è tornato in studio, ci stiamo occupando oggi di gioco, di attitudini degli italiani al gioco, e lo facciamo poi, vedrete che continuerà anche dopo questa trasmissione. Passerò idealmente il testimone a Melog con Gianluca Nicoletti, che si occupa proprio specificamente di quello che per noi è solo uno spunto, questo dei 4.000 euro al mese. Eravamo a una questione di dipendenza, però devo rispondere a Marta da Milano, che continua a darmi sms dicendo: no, allora devi dire voi giocatori, non dovete dire voi. Io non voglio distinguere eticamente tra me, che non gioco insomma ai giochi della lotteria, del monopolio. Io non metto soldi dove li piglia lo Stato. Questo, come avrete capito, è un filo rosso del mio comportamento generale, che penso che già siano troppo elevate le tasse. Non faccio giochi con scommesse in cui statisticamente la mia percentuale di vittoria renda totalmente irreale che io mi metta a perdere il mio tempo partecipando a queste cose, perché non credo tanto nella fortuna, che pure esiste, non credo nel caso, credo nel fatto che esistono poi naturalmente criteri statistici che bilanciano i fattori di rischio probabilistici nei giochi, ma per gestirli ci vuole molto tempo, sistemi complessi, bisogna metterci la testa sopra, e io naturalmente non lo faccio. Questa è la mia, una scelta che considero ragionevole, non dico razionale. Vediamo un pochino come la pensate. Eugenio da Parma, che ci dice Eugenio? Che ne pensa di questa attitudine al gioco, che vale oramai 3,5 punti, secondo me almeno, buoni quest'anno di PIL? Ah, guardi, buongiorno dottor Giannino, io sono del settore, quindi magari sono di parte, però... Ma lei organizza giochi o fa il giocatore? No, io sono un produttore di slot. Quelle che lei ha appena nominato, sì. Si dice che... Ecco. Però siamo, diciamo, molto preoccupati, perché oltre ai nostri new slot lo Stato sta facendo partire 50.000 videolotterie, che sono ancora più aggressive delle nostre new slot. Definisca cos'è una videolotteria, perché almeno a me personalmente non è chiaro. Cioè, videolotteria... Allora, prima le definisco cos'è una new slot. No, una new slot, no, ma le new slot più o meno lo sappiamo, le new slot su quei 48 quasi miliardi di euro 2008 no, ufficialmente sono giocati. 24 miliardi. Stavo dicendo, sul totale dei quasi 48 ha dato i 24, cioè quasi 50% del totale. Attenzione, anche come vede lei, come solito pensa l'idea che i giornalisti non sappiano le cose, i giornalisti si informano, ma le videolotterie invece cosa sono? Sono degli apparecchi collegati diciamo online, in cui la giocata non è più un euro ma sono 10 euro e la percentuale di vincita è calcolata su un ciclo di 5 milioni di euro. Sono macchine ancora più aggressive delle slot dei casinò. Sono macchine ancora più aggressive delle slot dei casinò, e quindi la giocata minima sarà 10 euro, se capisco, sì, bene, sui computer. Quindi questo è il classico gioco, sì, da ufficio facendo altro. No, vengono fatte tale apposta. Vengono fatte tanti mini casinò in Italia, quando faranno le sale scommesse o sale bingo che le metteranno. Interessante. E lei, come esperto, crede che questa cosa sarà un nuovo travolgente successo? No, secondo me sarà una ripulitura ulteriore del passo degli italiani. Ah, quindi lei dice è un fatto pericoloso. Sì, così come sono pericolosi i futuri skill game che usciranno. Perché prima, adesso si può giocare fino a 100 euro, poi si passerà che si potrà giocare fino a 1000 euro. Ho capito, quindi lei dà una voce di allarme. Sì, è un allarme che viene dal settore, non è un allarme che viene da un giocatore. No, no, ho capito. Poi sentiamo Gualandre che ci dice su questo. Elio da Salerno, che pensa? Buongiorno, che cosa penso? Che la cosa mi deprime, pensare che in fondo una parte degli italiani, per risolvere i problemi, giocano sperando nella vincita, e come si suol dire, poi mi sistemo. È terribile, cioè io mi trovo, non lo so, sono... Cioè lei è sconsolato. Sono umiliato, cioè mi vergogno di essere una persona che, non lo so, un nostro figlio, vedere una persona che gioca per risolvere i problemi della propria vita. Ma i problemi della vita si risolvono lavorando, facendo delle cose. Cioè, io spero che un giorno mio figlio impari a fare l'idraulico, non il giocatore, sperando nella vincita miliardaria così si salva. È allucinante, cioè, ci rendiamo conto dove stiamo arrivando, dove siamo, ci stiamo in, non lo so, c'è una povertà. Grazie, ho capito. Naturalmente però il fenomeno della fiducia, della speranza, della scommessa antifatalista c'è un evidente interesse dello Stato. Non vorrei neanche cadere nel moralismo, perché poi siccome è un fenomeno di massa in forte crescita, con delle caratteristiche tecnologiche di organizzazione del mercato che, come abbiamo visto, sono anche molto positive e innovative, secondo me, se ci limitiamo solo al moralismo, è un aspetto del fenomeno, ma di sicuro non è un aspetto fondamentale. Il problema della dipendenza, quello sì, adesso ce ne occupiamo, però prima vorrei una risposta da parte di Gualandri, appunto presidente fondatore di Gioco Digitale. Queste le nuove frontiere del gaming, tipo questa, le videolotterie eccetera, hanno davvero, dal suo punto di vista, dei fenomeni di pericolosità, cioè di induzione e di circonvenzione di incapace quasi? Ma questo è un elemento che è sempre stato presente in alcune tipologie di giochi. La cosa importante è il mondo del gioco è veramente ampio, è un universo all'interno del quale ci sono attitudini e approcci che sono diversissimi tra loro. Proprio solo l'esempio, l'intervista di pochi minuti fa con Pastura, un giocatore di poker non è un giocatore che si lascia abbindolare dal sogno, perché il poker in forma di torneo è un gioco dove l'unico modo per avere un grande monte premi è sconfiggere un grande numero di avversari, ed è chiaro che per fare questo posso sognare quanto voglio, ma o sono bravo o non arrivo in fondo. Molto diverso è il mondo delle lotterie, il mondo delle slot, dove l'attitudine e il giocatore stesso è una persona molto diversa, e quindi può essere, innanzitutto esiste il meccanismo del sogno nelle lotterie e nelle slot e nelle forme evolute di videolotterie, che è una sorta di incrocio tra le due, se volessimo semplificarla al massimo. Esiste l'attitudine al sogno e quindi esiste la possibilità che qualcuno ci rimanga un po' dentro, che esageri alla ricerca di questo. Quindi è veramente difficile pensare di catalogare il gioco come se fosse un fenomeno. Sono tanti fenomeni diversi tra loro. In alcuni di questi oggettivamente esiste, ed è anche documentato scientificamente dalla ricerca sociologica, il pericolo della ludopatia. E in questi casi il vero problema è: abbiamo uno Stato che decide di permettere un gioco che altrimenti diventerebbe illegale, lo fa diventare una fonte di tassazione, che è un fenomeno estremamente interessante, perché se ci si pensa a livello mondiale, ma di sicuro a livello europeo, il gioco è diventato una forma di tassazione volontaria, e quindi ormai fa parte del portafoglio degli strumenti con cui gli Stati si finanziano. Dall'altra parte però deve anche dare il supporto e fare le attività adeguate perché il fenomeno della ludopatia sia minimizzato. Non dico che possa essere eliminato, perché è un'attitudine di ciascuni, che poi decidono di rovinarsi in un modo piuttosto che in un altro, ma è un problema di informazione e di supporto per chi psicologicamente meno forte possa finire nella tentazione di quello che è chiaramente un meccanismo sbagliato: giocare al raddoppio sperando nella fortuna e tutti questi fenomeni. Ecco, abbiamo collegato esattamente, per capire meglio il fenomeno della ludopatia, cioè della dipendenza da gioco, Maurizio Ruschena, che è direttore del Dipartimento delle Dipendenze della ASL di Asti, quindi ha un'esperienza diretta, insomma sta in trincea occupandosi anche di questo fenomeno. Io faccio notare che nei sondaggi, nelle rilevazioni statistiche italiane, il problema della dipendenza da gioco è considerata tra le dipendenze il fenomeno a più alta, intensa e preoccupante crescita negli ultimi anni, più della dipendenza da pornografia, e percentualmente in crescita addirittura più che quello da sostanze psicotrope. Chi è l'affetto da ludopatia con cui lei ha a che fare, Ruschena? Ma a dire il vero non è che ci sia una tipologia specifica, o perlomeno può darsi che ci sia, ma non abbiamo ancora individuato una tipologia specifica, anche perché i servizi dedicati al gioco d'azzardo patologico sono dei neonati all'interno dei servizi per le dipendenze, e quindi i casi sono arrivati sinora alla spicciolata, e la cosa molto utile che voi fate di diffondere l'informazione sul fatto che esistono dei servizi per trattare le persone che hanno questa malattia è molto importante, proprio perché così la gente sa a chi può rivolgersi, sia i malati direttamente che i loro congiunti. Io adesso la interrompo solo perché abbiamo le informazioni stradali. Subito dopo riprendiamo con lei perché abbiamo delle domande da farle su: ma un familiare si può rivolgere alla ASL chiedendo se c'è un servizio come questo? E se inizia a chiedere a quel punto, ma che tipo di trattamenti fate? Ecco, domande pratiche di questo tipo, perché qualcuno ci manda SMS per chiedere se può evidentemente farlo per il proprio marito, proprio figlio, non diremo mai i nomi, però la domanda concreta è: come si può procedere? Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del gioco, di tutte le sue affascinanti cose che attirano tanta parte di voi. Marta da Milano continua, voi, io dico voi, rassegnati, tanta parte di voi italiani, degli aspetti innovativi, del fatto che è un settore dell'economia. Qualcuno chiede con gli SMS: ma come fai a parlare di 3 punti di PIL? Dice: al massimo dovresti parlare di SIL, spreco. No, PIL, perché quando ci sono migliaia di imprese e 70-80 mila persone che lavorano nel settore con professionalità anche avanzate, come avete visto dal punto di vista tecnologico dell'engineering, dei sistemi, del software, questo è PIL a tutti gli effetti, anzi è una frontiera in crescita a percentuale più elevata del resto del PIL italiano. Ma stiamo parlando con Maurizio Roschena, direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Asti. Concretamente, che cosa può fare un familiare convinto, per esempio, che in famiglia ci sia qualcuno che passa troppo tempo a sprecare un po' troppi soldi sulle macchinette al bar, come sul computer a casa o magari sul computer dal posto di lavoro? Può funzionare una segnalazione indiretta, Roschena? Assolutamente, nel senso che è importante che le persone, anche i congiunti, sappiano le vie di accesso alla cura. Poi naturalmente non è lecito forzare chi che sia la cura, ma se si sa dov'è e come ottenerla, naturalmente è tutto più facile. Ma com'è il trattamento? Pura questione psicologica, farmaci, di caso in caso è diverso, esistono tipologie? Ha detto proprio la cosa giusta, di caso in caso è diverso, però naturalmente ci sono diversi tipi di trattamento a livello individuale e di gruppo. L'approccio psicologico naturalmente è quello forse più, come dire, più noto, ecco, ma vi sono anche dei trattamenti di counseling di base che possono essere svolti da personale specializzato, educatori, assistenti sociali, infermieri anche, che aiutano le persone a dire dei no rispetto alla loro patologia. Ma tra l'altro è anche possibile utilizzare dei farmaci, diciamo psicofarmaci in generale, tanto per dare un'idea di bassa o media potenza, ecco, non dei farmaci particolarmente potenti, ma devo dire che non è il trattamento farmacologico la scelta d'elezione, può essere una delle cose, uno degli strumenti che si possono adoperare a seconda dei casi. Un'altra cosa molto interessante sono dei trattamenti residenziali che ormai sono stati inventati e vengono praticati un po' sulla falsariga dei trattamenti che si fanno per i tossicodipendenti o meglio ancora come analogia con gli alcolisti. Cioè nel senso che li si esclude da qualunque interazione con computer, video, macchinette dei bar eccetera, non cadono in tentazione avendo scelto di farlo, mi pare di capire. Sì, forse la cosa più interessante. Aia, la cosa più interessante, aspetti che hai saltato una parola, diceva la cosa più interessante? La cosa più interessante forse sono dei trattamenti che sono stati, come dire, attivati dall'ASL di Torino, che è stata capofila di questa cosa qua, e sono dei trattamenti di una diecina di giorni che servono in qualche maniera a concentrare e motivare la persona a resistere alla tentazione del gioco, naturalmente con tutta una preparazione in area, anche di mesi se necessario, e anche ulteriore dopo il trattamento. Di più, siccome sono delle patologie che come tutte le dipendenze tendono alla recidiva, tende a ricadere, è molto interessante il fatto che questi cicli possono essere rifatti magari 2-3 volte all'anno come richiamo di tipo così. Un po' come il vaccino, insomma, è contento. Cioè il richiamo per evitare che la partecipazione volontaria, ma insomma fatta con ragionevolezza, insomma, diventi invece una dipendenza vera. Sentiamo un ascoltatore, Alfredo da Milano. Prego, Alfredo. Buongiorno. Prego. Senta un po', io volevo dare a tutti gli ascoltatori una nota di ottimismo. Oh. Io ho vinto i tempi della lira, una cifra abbastanza buona, mi sono pagato il mutuo di casa. Con che gioco, se posso chiedere? Ho seguito un po' il consiglio, l'Enalotto. Però ho seguito il consiglio del dottor Pazzaglia, che è un esperto e scrive anche sui giornali del lotto, eccetera, di giocare poco ma sempre. Cioè io gioco un euro, due euro, no? Sì. Tutte le giocate dell'Enalotto, martedì, giovedì, sabato, e quindi sto lì, aspetto, se viene, viene. Se non viene, infatti a me è capitato, quindi direi grazie al gioco ho risolto anche un problema notevole. No, il mutuo è un bel problema da risolvere, quindi io... No, bisogna ricordarsi di giocare sempre ma poco. Sempre ma poco. Ha dato anche un consiglio ai giovani, perché potrebbe, insomma, dare un certo aiuto. Ecco, io immagino che nel sempre bisogna ricordarsi soprattutto del poco, perché sennò poi diventano problemi seri per il reddito disponibile. Andrea da Brescia, rapidamente, perché poi voglio fare un'altra chiamata, un'altra domanda agli ospiti. Prego, Andrea. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, naturalmente. E la domanda è questa: come mai con la prostituzione si è fatta una legge per togliere dalle strade? E di prostituzione nessuno si rovina, invece col gioco d'azzardo si prolifera l'offerta. E io ho avuto un'esperienza in famiglia di un fratello dipendente dal videopoker che si è rovinato, e invece con questo tipo di gioco, che non è assolutamente ludico ma è assolutamente aberrante, si prolifera l'offerta. La domanda è questa. Va bene, e io grazie. Questa domanda la giro a Giorgio De Rita. Giorgio De Rita, noi l'abbiamo già avuto ospite mesi fa, a giugno, è amministratore delegato di Nomisma. Non mi ricordo se fosse lui o qualcun altro di Nomisma, perché Nomisma ha tutti gli anni nella sua serie dei quaderni economici un approfondimento, un osservatorio molto ben fatto, come quello del Censis, dedicato al gioco, ed è, tra l'altro, tra pochi giorni esce l'aggiornamento dell'edizione 2009. Ecco, De Rita, voi siete molto attenti in questo osservatorio annuale ad alcuni aspetti fondamentali dell'offerta del tipo di giochi di cui stiamo parlando, e cioè avete individuato alcuni parametri, lo ricordo dal rapporto dell'anno scorso, per valutare la responsabilità sociale di questi, del complesso della vecchia lotteria, a soprattutto queste nuove frontiere in tumultuoso sviluppo del gaming, soprattutto su internet. E i parametri che proponevate sono la trasparenza, l'accessibilità, la prevenzione e la protezione, cioè un pacchetto informativo sufficientemente ben dato a chi si deve poi porre il problema, gioco non gioco, quanto spesso e a quale cifra. Dal suo punto di vista, stiamo migliorando sotto questi aspetti di trasparenza e di tutela anche, insomma, del cittadino, pur non volendo fare la parte del paternalista, perché poi è giusto che ciascuno possa liberamente scegliere anche di rovinarsi se vuole, ma stiamo migliorando da questo punto di vista, o le nuove forme di gaming online come questa delle videolotterie hanno in realtà sono dei passi indietro regressivi su questi quattro criteri di trasparenza che proponevate l'anno scorso? Ma direi che stiamo peggiorando, non perché le imprese e operatori del settore stiano investendo di meno o abbiano minore attenzione, ma perché il fenomeno si sta ulteriormente allargando, come diceva lei e come diceva anche l'ascoltatore prima. Il problema, visto soprattutto dal punto di vista dei giovani, e ricordiamo che il 70% dei ragazzi oggi dichiara di aver avuto esperienze di gioco più o meno difficili, più o meno interessanti, i giovani dicono vietare il gioco è impossibile perché i siti internet alla fine finiscono per essere accessibili, perché le occasioni di gioco sono tante, e quindi vanno verso una dimensione di gioco per quanto possibile riconoscibile e facilmente accessibile. Contemporaneamente però dicono siamo consapevoli che il gioco espone a tanti rischi, perché lo vediamo nelle nostre famiglie, lo vediamo nei circoli degli amici, e quindi abbiamo bisogno di molta più informazione, di molta più conoscenza dei fenomeni dei rischi da gioco. A fronte di questo invece la pubblicità si è fatta veramente aggressiva, non sono noti dati perché non sono stati pubblicati su quanto complessivamente il settore del gioco spende in pubblicità, la nostra stima è che nel corso del 2009 rispetto al 2008 sia stata moltiplicata per 10. Oggi i giovani trovano pubblicità del gioco soprattutto sui siti dedicati alla scuola, dedicati alle loro attività, ai loro interessi, allo sport, e quindi da un lato vogliono libertà ma dall'altro chiedono protezione rispetto a un'informazione ancora troppo scarsa. Ecco, di fronte a questa domanda duplice di libertà e di protezione attraverso l'informazione, le imprese stanno facendo veramente poco e la situazione sta peggiorando. È così, io penso che contemplare libertà e responsabilità sia esattamente veramente il sottile crinale su cui bisogna muoversi. Non ho tempo per chiedere a Gualandri, quindi da un protagonista e fondatore di un'impresa d'avanguardia in questo settore, come dal suo punto di vista le imprese cooperano. Io sono convinto che cooperino, ma credo che si possa e si debba fare di più. Lascio il testimone quindi a Nicoletti, che parte anche lui su questa cosa dei 4.000 euro al mese. Dico semplicemente che almeno di tutti questi soldi che giustamente voi giocatori date lo Stato ce li restituisse almeno in parte, abbassandoci le tasse, insomma, come sempre. Ringrazio in regia Giacomo Spunta, redazione Alessandro Marco Tulli, la linea Giornale Radio. A domani.